Buon pomeriggio, bentrovati a quest'ultima puntata della VoiceOver. Io sono sempre Rosa Coppola, siamo sempre in diretta dal centro diurno di salute mentale che ci ha ospitato, accolto e fornito tantissimi caffè che ci hanno aiutato tantissimo ad andare avanti tutti questi giorni e che quindi ringraziamo. Oggi con me ci sono autrice e performer di un lavoro. Scusate che nel momento si è alzato un vento caldissimo, c'è uno spostamento di sedie, quindi siamo in osce. No, non era un modo per ammonire, era un modo per spiegare cosa accadeva. E dicevo, con me c'è Amalia Franco con il suo Esercizi per scomparire, Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi di Ateliersi, che hanno portato qui il loro lavoro, La mappa del cuore di Lea Meandri, e Giuseppe Valentino, filmmaker, con un film che ha un titolo che lascerei dire a te, perché è stata una running gag per tutto il festival, quindi è giusto che lo dica tu. Dispatches from 22X. Questa era la cosa difficile che ti volevo smollare alla grande. Per cominciare vi chiederei di raccontarci un po' come sono nati questi lavori, da dove vengono, e poi proviamo a capire qui in che stazione magari sono arrivati. Non so chi vuole cominciare. Voi avete là il microfono, però sì, comincia tu. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Siamo sempre anche in radio, ok? Ciao a tutti quelli della radio, sono Giuseppe Valentino, l'autore del film che si chiama Dispatches from 22X, che si sarebbe dovuto chiamare soltanto Dispacci, però Anna Gesualdi, che è qua, ha detto no, non mi piace, deve avere un altro titolo, usa la prima nel film, come fanno i poeti. Ok, sono andato a vedere, era Pippo Pirozzi che diceva Scala, e quindi ho detto no, forse non è proprio perfetto. E comunque l'idea era quella del dispaccio, proprio perché sì, e poi quando ho montato il canto in georgiano, quindi era comunque una parola in Georgia. Sì, è nata un po', questa è un po' la premessa che abbiamo fatto in questi giorni con Anna. È nata un po' per capire, per ascoltare un po' le voci degli artisti che uscivano fuori da un periodo molto particolare. È stato un periodo particolare per tutti quanti, lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, lo è stato particolarmente per chi faceva cultura, per chi faceva arte, per chi nel mio caso faceva cinema, si era un po' fermato tutto, anche se il cinema, mi ricordo, è ricominciato abbastanza presto, perché sì, per una questione di industria. Quindi l'idea era un po' di capire un po' come era stato vissuto il periodo, e forse anche un po' chiedere forse anche qualcosa di propositivo agli artisti. Ogni tanto un po' me l'hanno detto in maniera un po' naturale, cioè hanno detto secondo me la pandemia per me ha significato questo, e potremmo fare, da questo momento in poi potremmo pensare a qualcosa di nuovo, perché adesso abbiamo un esempio, un unicum, mai successo, si è bloccato tutto, eccetera, eccetera. Forse è il momento per ristabilire degli equilibri che sappiamo che non andavano bene, oppure delle cose sono un po' poi arrivate all'imbuto proprio, nel senso dell'insostenibilità un po' di tanti modelli. Quindi questa è stata la grande curiosità, era quella di capire un po', di sviluppare questo aspetto della città sospesa, cioè cercare di creare plasticamente con delle immagini che cosa significa stare in un momento in cui non si è ancora ricominciare poi a fare cosa, come, eccetera, eccetera. Quindi questo è. Vado io. Ok. Andrea Mochi Sismondi e Fiorenza Menni di Ateliersi. Il lavoro che abbiamo portato questi giorni a Vico Tronari nasce dal desiderio di lavorare su uno spettacolo, La mappa del cuore di Lea Melandri, che ha debuttato nel 2020 in formato live, nel formato della realtà virtuale. Avevamo durante le prove sviluppato questo desiderio molto forte di avere gli spettatori al centro e di circondarli di segni, visioni e parole, perché è uno spettacolo che nasce dal questo scambio epistolare fra le adolescenti e gli adolescenti degli anni Ottanta e Lea Melandri, figura di riferimento del femminismo, del movimento non autoritario, che era stata chiamata a condurre su un settimanale molto pop che era Ragazza In, e quindi questa commistione di livelli e di linguaggi ci aveva molto interessato. Nel live non abbiamo potuto portare tutto il pubblico al centro perché sarebbe stato difficile, tanto più in tempi pandemici, non li potevamo azzeccare tutti in centro, e invece la realtà virtuale ci ha permesso questo. E è risuonato in maniera molto forte con il luogo e con le persone che ci hanno accolto, però magari di questo ne parliamo dopo. Vuoi aggiungere? Amalia Franco, esercizi per scomparire. Gli esercizi nascono come un gioco anche abbastanza anni fa, ovvero la fine del 2018, se non sbaglio, e nascono fuori da ogni discorso performativo, ma come dei piccoli scritti, dei giochi, una specie di zibaldone di pensierini disparati. E nel 2020 desideravo lavorare su Napoleone, ma la cosa andò a male e quindi ripresi gli esercizi per scomparire, scritti piccolini, disparati, e iniziai a lavorare da un punto di vista performativo, quindi pensando alla scena, a questi esercizi. Ok. Nell'avvicinarmi ai vostri tre lavori, che chiaramente in alcuni casi sono anche più generali delle pratiche, la prima cosa che mi è venuta in mente è che i vostri tre lavori messi in una certa serie formano una storia del rapporto umano con l'artificio, perché Amalia si accompagna a marionette, quindi immediatamente a me è venuto in mente tutto il discorso sull'automa, sulla creazione fisica dell'altro. Giuseppe, tu facendo cinema automaticamente ti confronti con l'occhio meccanico, l'occhio artificiale, e Atelier si porta praticamente l'ultima frontiera dell'artificio tecnologico, tecnico, e cioè il visore, perché il vostro lavoro in questa forma, appunto dopo la lavorazione, si offre, si dà allo spettatore attraverso un dispositivo. Quindi già secondo me ripercorrere queste tre fasi del rapporto con quello che apre una dicotomia particolarmente foriera di cambiamenti, cioè la dicotomia tra naturale e artificiale, che è un campo di negoziazione particolarmente sottile, perché comunque la nozione di artificiale, a seconda di come usata, può essere sia un dispositivo di controllo normativo, esclusivo, e che risuona anche particolarmente nel luogo in cui siamo, ciò che è naturale e ciò che non lo è. Insomma, il rapporto con l'artificiale o fa questo oppure sposta questo limite, sovverte quelle che sono anche delle consapevolezze biologiche dell'essere, e quindi si va verso un allargare i propri confini, un estenderli attraverso un braccio meccanico, un occhio meccanico, due occhi meccanici nel vostro caso. Quindi molto semplicemente vi chiederei: qual è il vostro rapporto con questa dicotomia, con l'artificio, col binomio naturale-artificiale? Magari non solo a partire dal lavoro che portate, perché chiaramente mi rendo conto che, per esempio, appunto nel tuo caso, Giuseppe, forse è una fattispecie molto particolare, perché in questo caso è un occhio artificiale che riprende concretamente una realtà nel suo farsi, e che quindi, non lo so, vuoi cominciare tu? No, proprio per questo no. Allora, chi vuole cominciare? Allora, Fiorenza Teliersi. Allora, rispetto a questo, due cose. Allora, una che noi siamo approdati a questo non esattamente per una competenza o passione tecnologica estrema, ma per risolvere e per affrontare, come sempre, alcune questioni relazionali ed emotive. Relazionali perché il progetto che prima raccontava Andrea è nato anche questo in tempo pandemico, quando c'era stata annullata la tournée e quando non volevamo, diciamo, lasciare a casa tutte le collaborazioni coinvolte nella tournée. Un pochino abbiamo dedicato un mese di tempo, insomma, tra la preparazione, i girati e la costruzione a questo, così abbiamo continuato a lavorare e abbiamo scoperto che questo mezzo, utilizzato così come l'abbiamo utilizzato, forse in maniera anche molto semplice, non so, e questo ci ha permesso di tenere la lunga durata di un'ora, che non è semplice, chi l'ha fatto, per questo poi viene accolto, ma di questo ne parliamo dopo. E c'è una cosa che però è molto, ci tiene molto legati al teatro. Col visore fai esattamente quello che fai in sala, cosa che al cinema non è possibile. Il cinema, il tuo sguardo è sempre guidato dal montaggio meraviglioso, no? È proprio col visore, se, non so, noi durante la visione del pubblico abbiamo il mirroring, quindi vediamo che cosa le persone stanno guardando, dove si fissano. C'è chi non si stacca da Francesca, che vuole stare su quell'icona anni 80 così importante. C'è chi invece, lì ci meraviglia tantissimo, si aggrappa al dialogo e non molla noi due, fa solo il gioco che si fa a teatro, questo. C'è invece chi, forse più aperto, si apre meglio al mezzo, che vaga tra le stelle, le letterine, la rivista e all'intorno. Quindi in realtà è un'operazione teatrale di quest'epoca, ma che conserva, si mette in relazione con alcune che sono le grammatiche in relazione del teatro. A noi interessa anche il fatto che il visore ha un rapporto di intimità, lo puoi fare anche in condizioni estreme di malattia, di chiusura. Queste cose un po' ci chiamano. Puoi portarlo a una persona che non può uscire di casa, lo puoi portare. Questa è una cosa sicuramente interessante per la durata che ha. E l'altra cosa è che noi abbiamo fatto sì l'opera in realtà virtuale, ma abbiamo creato una performance attorno e che per noi è importante tanto quanto il video che viene poi visto, cioè è come le persone vengono accolte e portate dentro la realtà virtuale. Dentro. La cosa fortissima è che è un brivido emotivo, e questo poi magari Margherita, se vuoi, a noi interessa tantissimo quel momento in cui le persone si fanno prendere per mano, si fanno mettere sedute e chissà dove vanno. E già quell'andare è una predisposizione all'incontro con i materiali che noi abbiamo elaborato, i materiali della corrispondenza con Lea, che chiaramente cambia. Ed è quello che a noi piacerebbe che succedesse ogni volta, che un po' abbiamo perso, cioè adesso anche qui non voglio fare troppo la nobile del teatro, ma cioè che entri in una sala e quella magia, no, quella magia va spostata, sono altre cose che il pubblico va gestito e incontrato e accolto e portato dentro in una maniera diversa. Non è che basta entrare in una sala teatrale, ha bisogno di altro, ha bisogno di altra cura, è una cura di anima, di corpo, di emozione. Le persone, anche perché ci troviamo a fare, vado veloce, ci troviamo a fare una strana alfabetizzazione, noi stessi ci siamo alfabetizzati per entrare in questo progetto. L'80% delle persone che arrivano non hanno mai indossato un visore, a volte tremano, ma quello che incontrano è loro, cioè sono loro stessi che si incontrano e stanno da soli là dentro, ma tremano questa cosa. E quando escono, poi insomma, sono meravigliosi nei loro vari incontri. Dicotomia. Sì. Amalia. realmente nel processo di... creazione e anche nella, poi nel, nella relazione col pubblico. Io cerco di star fuori dalla dicotomia, ovvero provare a intendere questa roba tra, per il mio caso in maniera molto evidente, animato e inanimato, in una specie di nastro di Moebius, quindi andiamo lungo il confine, passiamo dall'interno all'esterno senza soluzione di continuità. E quindi da una parte c'è questo come tentativo di approccio non solo intellettuale ma anche fisico, d'altro canto c'è la consapevolezza che per l'appunto nell'immediatezza arrivi il rapporto dicotomico, che tra l'altro il primo giorno che ho conosciuto Anna e Giovanni, Giovanni poi ci ha accompagnato da Deborah e Dario che sono gli ospiti, non mi ricordo in merito a qualcosa, però a un certo punto dice dialogo in senso dialogos, quindi questo discorso della separazione chiaramente è un fatto che ci permette di apprendere, di relazionarci, di riconoscere le cose. Il tentativo però è quello di spostare, quindi cercare una relazione che perda questa dimensione della separazione per poi magari ritrovarla. Sì, Giuseppe, Valentino, dirò delle cose che non so se poi rispondono a quello che stai chiedendo, però... allora, nel caso di un documentario la macchina da presa diventa un po' ovviamente l'occhio, anche perché quello che succede è nell'immediato e quindi non c'è in questo senso la drammaturgia, così si suol dire, si costruisce al montaggio, cioè si prende il materiale che ci si interessa delle cose, si seguono delle piste che potrebbero essere drammaturgiche, che possono portare da qualche parte, quindi nel caso quindi si prende questo materiale, poi si porta al montaggio e con tanta disperazione si assembla questa cosa, certe volte va bene, altre volte no. Nel caso invece di questo lavoro io non avevo bene una... avevo pochissima direzione mentre andavo e quindi anche forse l'unica cosa era questa cosa un po' della sospensione della città, perché era una cosa che volevo materializzare attraverso le immagini, però non sapevo bene dove andare, però quando ho montato ho provato, ma è un po' impossibile di lavorare troppo a costruire delle sequenze che poi venissero montate, quindi cercare di mantenere un'immediatezza e quindi anche una mancanza di precisione. Ci sono un sacco di... E quello anche che si è mantenuto è tanto... Mi sono distratto dal caffè che spero che arrivi. grazie grazie mille, grazie Salvatore. Grazie Salvatore per il caffè a nome di tutti, grazie. E quindi c'era questa cosa per esempio dello stacco, che era un po' come una palpebra che si chiude e si apre. Quindi esattamente un occhio che è un po' perso in questa cosa, che non ha bene un'opinione in merito e si fa un po' di domande. Ti dico, questo è stato quello che mi ha portato anche in rapporto con la macchina da presa, quindi non so se ho risposto a quello che volevi sapere un po', però perché il discorso dell'occhio era quello, era un po' un occhio perso, che è rimasto perso forse un po' fino alla fine. Ascoltandovi penso molto alle cose che ci siamo detti ieri, no? su questo lavorare per giungere a zone ibride, sfocate, in cui diverse cose si fondono insieme. in cui però viene stimolata o innestata un'operazione di taglio, di scorcio, perché comunque Fiorenza e Andrea, nel vostro lavoro c'è questa regia condivisa che non può mai guardare. La mia grande frustrazione è che io non potevo mai guardare tutta la scena in un solo sguardo, non potevo mai contenere tutto in un solo momento, e quindi io dovevo lavorare per scorci, dovevo trovarmi io l'angolo che secondo me era comunicante in quel senso. Tu, Giuseppe, lo fai, diciamo, a posteriori nel momento di montaggio, cioè lavorare questa materia ibrida per taglio, e anche nella fruizione del tuo lavoro, Amalia, per questioni legate allo spazio in cui siamo, molte cose le percepiamo per scorci e assumono anche, diciamo, come dire, rifrazioni soggettive, magiche più o meno, a seconda di questa operazione di taglio. Come vi risuona questa cosa nella vostra pratica? Volevo però poi aggiungere, scusate perché ora mi è venuta un'altra cosa in mente, che nel vostro caso il lavoro poi sull'artificiale, parlo con ateliersi, perdonatemi, persone a casa, è un lavoro che ritorna però sulla questione del linguaggio e sul lavoro che voi fate drammaturgicamente prima sul materiale, perché quello è un materiale di vissuto, spesso voi usate il dialogo, però non è un dialogo emotivamente connotato, è un dialogo anzi sempre molto ripulito, che forzando un po' può rientrare nella cosa dell'artificiale. Quindi a voi lancio questa palla e poi lancio un po' a tutti le palline sulla questione del taglio di questa materia ibrida. Chi si lancia? Prendo prima una pallina. Sì, una alla volta, per prendo carità, prima una pallina, che è la questione, che è la questione dello scorcio e dei tagli. Perché abbiamo finito un'ora e mezzo fa l'ultima visione e io ho molto presente, molto vivido dentro il modo in cui abbiamo abitato Vico dei Tronari e il modo nel quale Vico dei Tronari ci si è aperto, si è reso permeabile. E perché mi ricollego a quello che diceva prima Fiorenza della performance che noi costruiamo intorno alla visione, che nei musei, nelle biblioteche, nelle gallerie, che sono i luoghi che principalmente hanno ospitato in questo anno e mezzo di vita del lavoro la visione, l'installazione è costruita proprio con un setting specifico, con degli oggetti scenografici, con una partitura fisica che Margherita, che Woody Yon e Eugenia Del Bue fanno e eseguono durante la visione, e proprio per dare questo senso di relazione con lo sguardo esterno, cioè con lo scorcio di quello che sta accadendo, che hanno i visitatori dei musei, gli utenti delle biblioteche, che passano senza sapere cosa la persona sta vedendo, ma vedono da fuori dei corpi che sono nel lavoro, sono nella concentrazione. Ovviamente sulla visione interna, nella logica, nella poetica di Altofest, noi non abbiamo lavorato sulla visione interna, perché quello che vede lo spettatore lo costruisce, come dici tu, ma è una serie di possibilità date. Mentre invece è su tutta la parte precedente che abbiamo lavorato nel ricostruire il senso di questo avvicinamento. E avendo accolto l'invito di Altofest, splendido per noi, di lavorare a Vico dei Tronari, abbiamo trasformato questa partitura fisica molto codificata in una partitura di visioni, stati, ritmi della persona che arriva. La persona che arriva a Vico dei Tronari, nelle cinque case in cui entra o nel gabbiotto di Don Vincenzo dentro la cava, viene accompagnato ad una relazione con le persone che ci stanno ospitando, sia con le persone in particolare, e a volte accade che un dialogo, a volte accade un buongiorno, buonasera, a volte accade un siediti, a volte accade un caffè, a volte accade un cenno, a seconda del momento della giornata, perché è nel rispetto del momento della giornata, ma attraversano le loro vite, perché attraversano le loro scale, le loro cucine, le loro camere, toccano i loro oggetti della vita quotidiana, e quindi è veramente una partitura di visioni e di scorci, quella che poi porta al momento di entrare dentro il tuo 360 gradi della visione. Quindi anche questo è stato per noi il luogo prezioso della residenza, cioè trasformare una partitura, se vuoi, performativa più definita e classica nel senso gestuale, in una partitura di stati d'animo, in amorosa corrispondenza di sensi con coloro che ti stavano accogliendo. Giuseppe Valentino, quasi al sole, sempre più al sole. Sì. Ma mettiti qua, dai. Mi metto con voi. Dai. Rosa ci interroga. Allora, Rosa, sì. Siamo noi che ti interroghiamo. Qual era la parola? Hai usato una parola? Taglio. Taglio. Angolazione potrebbe anche essere. Perché l'angolazione al cinema è una cosa molto importante, no? Nel senso che... E forse è l'unica cosa che l'angolazione è forse l'unica cosa che in un documentario ti porti al montaggio, cioè magari non ti porti, non è detto che tu ti mi ripeto forse un po', non è detto che ti porti una drammaturgia vera e propria, però ti porti, cioè, l'angolazione è un po', è come il seme inespresso di quello che stai andando a montare. E quindi questa cosa nel caso di Spacci c'era sul guardare, ogni volta che sono andato a trovare gli artisti in residenza ho sempre filmato un po' quello che si vedeva dalle finestre, in maniera anche un po' banale, perché le finestre sono state protagoniste un po' del periodo pandemico, a Napoli si cantava, eccetera eccetera, un po' anche in tutta Italia, però le finestre sono state... Le finestre sono state le finestre e banalmente i panorami sono stati l'angolazione che mi volevo portare, non sapevo se la dovevo poi utilizzare veramente oppure no, però mi sembrava era importante vedere la città dal più alto possibile ogni volta e dall'angolazione che avevo che un po' mi in quel momento mi stava interessando, ecco, questo è. Tu hai il microfono. Sì. Sono d'accordo con Giuseppe. Finalmente. Vado un po' nello specifico del discorso degli esercizi. Ma è stato un lavorio di contrattazione fondamentalmente, quindi di un tentativo da parte mia anche abbastanza meticoloso di considerare le varie possibilità, ovvero c'era la consapevolezza di cosa vedesse chi e l'accettazione di cosa vedesse chi, quindi ho dovuto rinunciare, soprattutto nell'ambito del lavoro con la figura, dell'immagine, di calibrare secondo una mia volontà precisa tutto quello che lo spettatore vede, che ora queste parole, tutto quello che io lo calibro non mai, però posso decidere buone cose. Quindi questo lavoro di contrattazione rispetto il nucleo della faccenda portato da me, tutto ciò in relazione anche ai nuovi squarci, le nuove angolazioni, le nuove prospettive, i nuovi paesaggi che mi offriva la situazione, quindi a livello paesaggistico provare a osservare le cose. Per i primi giorni ho osservato un po' la situazione, non ho fatto granché e ho cercato di fare un lavoro di visualizzazione delle parti, dei pezzi, che poi tra l'altro stavo pensando, ma che lui fa cinema, e c'è questa roba del in un film di Greenaway che non ricordo quale sia. A un certo punto uno dei protagonisti dice che il corpo è tutto spezzettato per entrare meglio nell'inquadratura, lo zoo di Venere. Di Venere, penso, sì. E quelli di frammentazione sono... Io ho lavorato con gli esercizi anche provando ad inquadrarli in delle categorie. quindi alcuni esercizi possono essere riconducibili allo spostamento, altri sono esercizi di frammentazione. Nella frammentazione, in un qualche modo, noi abbiamo delle possibilità di sparizione, se non altro intanto dell'intero. Mm-hmm. E quindi sì, pensavo poi anche questo ora. Io partendo dalla sfida un po' che ci ha lanciato Amalia, anche solo con il titolo del suo lavoro, mi volevo anche concentrare brevemente appunto in questa tessitura per scorci, per modulazioni di questa materia che a volte diventa ibrida, a volte può essere percepita come naturale, ecco la tazzina che cade, a volte come artificiale. Tutto questo è comunque animato dalla volontà di far apparire qualcosa. Voi lavorate, Atelier si lavora tantissimo sul materiale documentario, cioè questo lavoro, immagino avrete letto lettere che inviate, o comunque avete lavorato tantissimo sul format dell'intervista, cioè prendete concretamente dalla vita che si vive o che si è vissuta o che è stata depositata su carta. Giuseppe ha fatto in questo caso un documentario, non è il primo tra l'altro documentario, quindi lavora in ambito documentario, e invece Amalia per scomparire si moltiplica, quindi comunque appare qualcos'altro. Cosa scompare? O comunque come voi lavorate per far scomparire qualcosa, se c'è qualcosa che scompare, in questo lavoro di lasciare affiorare qualcos'altro? Inizio io? Sì, perché posso... Dai il buon esempio, Giuseppe, inizia tu. Inizio io, soprattutto per Giuseppe Valentino, Dispatch. Che sembra il posto da cui provieni, Giuseppe Valentino, Dispatch. Esatto. No, è semplicissimo rispondere, fortunatamente, questa cosa, perché finalmente... No, perché la sottrazione, no? È penso che sia l'aspetto più importante di quello che faccio io, e mi permetto di dire forse che si fa nella creazione, no? Cioè la sottrazione ha peso specifico tanto quanto quello che poi diventa il lavoro finale. Anzi, la sottrazione è la cosa, a me è la cosa che più ha guidato, no? Per esempio questa regola autoimposta di non far vedere, una cosa molto semplice, di non far vedere gli intervistati, per esempio. È stata un po' una limitazione, anche perché sarebbe stato molto più semplice far vedere delle persone, perché non avevo tantissimo materiale, perché non è stato girato in tanti giorni, quindi il materiale era molto... è veramente bastato, quindi anche questo, per esempio, il materiale non era tantissimo, e quello che è stato sottratto è quello che alla fine poi ha informato tutto il resto, comunque quello che non c'è, quello di cui non volevo si parlasse, no? Per esempio, un'altra cosa che ho sottratto in maniera sacrilega sono i donatori di spazio, che invece sono molto, molto importanti ad Altofest, nel mio lavoro sono stati brutalmente esclusi, perché hanno avuto tanto spazio e in quel momento bastavano, non c'era bisogno, quindi sono stati sottratti alla visione finale, per esempio i donatori di spazio, i visi che parlavano e tante altre cose che comunque hanno poi guidato la parte poi più concreta, che è tutto il montaggio. Allora, quello che ci divertiamo a nascondere? Sì, a nascondere o a farci, cioè a lasciar che scompaia. Perché sì, allora, sicuramente è quello che solitamente si cerca, cioè il confine tra il reale e il finzionale. Allora, noi cerchiamo proprio di nascondere quel confine, lo nascondiamo e quindi non si capisce più. Non si capisce più se chi parla, e non siamo io e Andrea in dialogo, ma veniamo scambiati per io e Andrea, tant'è che a volte ci vengono fatte delle domande timidamente, come quando si fa una domanda personale, tipo: ma È vero che tu hai fatto quella cosa? Ma quella persona, ma chi è quella persona che stai descrivendo? Ma quella persona non esiste. E la cosa che ci diverte molto, faccio l'esempio di Soli, l'scrittura di Pensaci Giacomino, dove ci sono delle figure che vengono evocate, così come in Pensaci Giacomino, cioè la coppia dei giovani che vengono aiutati dall'anziano professore, e praticamente tutte le persone che ci hanno avvicinato per chiederci non ci hanno chiesto chi sono quei due ragazzi, che sono due ragazzi del reale, ma ci hanno chiesto ma chi è quel professore, che quel professore non esiste, non c'è. E quindi sì, tendenzialmente, ma come un divertimento, ma soprattutto per tener viva la relazione emotiva e narrativa, cerchiamo di nascondere il confine tra il vero e il falso. Sì, io sono sicuramente andata anche su un discorso legato alla moltiplicazione, perché mi pareva che nella moltiplicazione ci fosse un buon margine per ottenere il risultato, ovvero la sparizione. I volti delle marionette nelle loro diverse forme e fatture bene o male sono sempre gli stessi, con delle variazioni su tema. Una delle riflessioni che accompagnava gli esercizi infatti era quella dell'identico. Se pensiamo ai gemelli, storicamente c'è sempre una lotta fratricida, perché è impossibile pensare la convivenza pacifica di entrambi. E quindi mi interrogavo su questa possibilità di convivenza invece dell'identico, anche in una dimensione sociale che non entra direttamente nel lavoro, però è presente come fastidio in me, che è quella dell'eccezionale, la terra. No, poi noi al sud lo viviamo assai, la terra dell'eccellenza. Noi in Italia, noi al sud viviamo delle cose, i geni che scompaiono, sei unico, credici, no? Allora, ecco, ho pensato che invece desideravo provare a sperimentare questa strada dove non c'è nessun unico, non c'è nessuna eccezione, né eccezionale, e questo è una cosa. Che poi, nell'ottica di questa moltiplicazione, tra l'altro, si sono moltiplicati gli esercizi, ad alcuni ci ho rinunciato, alcuni che erano già presenti nel live, però sono arrivati questi esercizi che sono anch'essi cumulativi, ovvero la raccolta di aneddoti che per una serie di circostanze mi è capitata qui a Napoli. E quindi anche il moltiplicarsi delle persone che partecipano e che con me intrattengono delle relazioni in merito a questa riflessione, e spostare lo sguardo su un altro nome, questo anche è stata una strada. Non so se tra il pubblico ci sono suggestioni, domande, curiosità. Al microfono però. In che senso cambiare il nome, l'ultima cosa che hai detto? È che proprio cambio, un pubblico arriva alla performance di Amalia Franco, io inizio banalmente a spostare il centro su Dario, su Agostino, su Doris. Poi la questione per l'appunto si può rapportare anche all'identico, nel senso, poi la domanda è che differenza c'è tra Amalia, Dario, Agostino. Ci sono altre domande, curiosità? No, vedo tutti molto soddisfatti, quindi io libererei Fiorenza e Andrea che devono partire, e Amalia che ha alle 6. Le prossime due ore Giuseppe Valentino. E adesso infatti restiamo con Giuseppe Valentino, che ci racconterà nel dettaglio tutte le indecisioni di montaggio mentre andava avanti. Quindi io vi ringrazio tantissimo, ringrazio voi per prestarvi sempre con estrema gentilezza a tutte le cose strane che mi vengono in mente e per, appunto sì, per prestarvi a questa operazione. Ringrazio nuovamente il Centro Diurno di Salute Mentale per averci accolto Grazie. In maniera davvero eccezionale in questi giorni. Ringrazio ovviamente tutti i donatori di spazio, i visitatori, Anna Gesualdi e Giovanni Trono, ma questo va ormai da sé perché attento eravamo qua, quindi vi ringrazio pro forma, ma senza di voi questa cosa non si può fare. E buon ultima tranche e ci vediamo stasera da show per salutarci. Grazie.